594. Roschetti. Farina grammi 200, zucchero a velo grammi 100, mandorle dolci grammi 100, burro grammi 80, strutto grammi 30, uovo uno intero e un rosso. Sbucciate le mandorle, asciugatele bene al sole o al fuoco, tostatele color nocciola e tritatele alla grossezza di mezzo chicco di riso. Poi mescolate tanto queste che lo zucchero fra la farina. Nella massa così formata fate una buca per metterci il resto ed intridetela lavorandola il meno possibile. Indi lasciatela qualche ora in riposo nella forma di un pane rotondo. Infarinate leggermente la spianatoia e tirate il pane suddetto prima col matterello liscio, poi con quello rigato alla grossezza poco meno di un centimetro. Se lo tagliate col disco del numero 162 o con altro consimile, otterrete circa 50 di queste pastine, che potrete cuocere nel forno da campagna dopo averle collocate in una teglia unta appena col burro d'acio.